Drago, oggi facciamo in fretta che è venerdì, quindi? No, stasera c'è una cena importante con persone serie, quindi. Ma con chi? C'è Luciano Onder, Gabriele Albertini, Gigi Marzullo, il padre di Pingu e l'Armando della Pimpa. Però. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, siamo di nuovo al venerdì, te l'ho detto, c'è la cena importante stasera. Bravo. Il tempo passa davvero in fretta. Con quindi questo io volevo ringraziare l'International Bureau of Weights and Measures di Parigi. Ma ancora? Sì, mi piace perché così se te lo fai amico, il venerdì dura meno. Vabbè. Giornata corta, il weekend comincia prima. Capito? Che bello, vabbè, fine perché della settimana. Il tempo non esiste, il tempo e lo spazio non esiste, tutto è relativo. Einstein, no, che però Einstein ha già sbagliato, perché i neutrini, perché ha ragione la Gelmini che c'è un tunnel che attraversa. Eh certo, è quella roba lì che fa andare forti i neutrini. Comunque dai, diamo un'occhiata a quello che è successo nel mondo social di Chiedo Asilo. Ci sono tentativi di testo per la canzone Gildo Gildo che abbiamo proposto in tutti i modi, su Facebook, per radio, al telefono, su gentile richiesta dal vivo. Proviamo a vedere se qualcuno ha afferrato la metrica impossibile della canzone. No, no, no, no, l'hanno afferrata, guarda, dai. Adesso ti leggo quella di Matteo, anzi te la canto sulla base. Ti cerco sulla destra, anche un po' sulla sinistra, perché questa è. Stai forse giocando Gildo, o forse un problema di vista. C'è pure Suor Dentona, sta accusando me. Sono il bambino Alberto dell'asilo re. Gildo, Gildo, non mi devi sparire. Allora funziona abbastanza, forse la prima. A me, la non, prima, a me non piace sto non mi devi sparire. Come non mi, dai, è quel riferimento. Mi stai male, mi stai bene, sì, cosa vabbè. Mi hai fatto? Vabbè, proviamo allora quello che dice Marco. Che Marco, dice? Marco dice: questo mondo sempre più distante e ruffiano, dove i bambini alberti sono pieni anche i deserti. Nessuno che mi scalda di là. Mi sento sollevato, tossisco e chiedo asilo. Gildo, Gildo, unico amico per me. Però Marco si lamenta del fatto che la parte col colpo di tosse è un po' difficile da inserire. Però possiamo anche far finta che non ci sia il colpo di tosse, no? Come? Perché? Ma no, ma è fondamentale. Ma il colpo di tosse, ma Drago, ma tutto il pezzo sta nel colpo di tosse. Ma come si fa a fare la metrica del colpo di tosse? Vabbè, comunque, fate come Matteo e Marco, provate anche voi a scrivere le parole di Gildo Gildo e mettetele sulla bacheca Facebook di Chiedo Asilo o mandatele via mail a chiedoasilo@radio24.it. Il microfono è questo, Vabbè, io parlo un po' in giro. Allora, Gildo, hai capito? Allora, devi mettergli un ginocchio sulla schiena, no? Per tenere cosa sta dicendo? Poi li prendi. Bambino Alberto, cosa fai lì per terra? Bambino Alberto, cosa stai facendo? No, no, sono qua con Gildo. Ah, sì, vabbè. Gli sto insegnando alcuni trucchi per l'incontro di lotta libera. Ma come? Cosa? Come? C'è un incontro di lotta libera a scuola qui, all'asilo? Non sapete niente? No. No. Allora, sto organizzando un torneo di lotta libera qui all'asilo, dei bambini. Idea forte, Ma cioè, ma qui all'asilo, ma non si fa la lotta? Non si può fare, appunto. Perché? Ma perché giocate a prendirella? Lotta libera di bambini? Prendirella, si è giocata prendirella, si sente capace. Mosca cieca, lo so. Prendirella, lo conosci prendirella? No, lui sì, lo conosceva. Lui chi? Chi? Gildo. Ah, già, Gildo. Sì. Vabbè, allora. Comunque, scusate, non è che me lo sono inventato io, Lo fanno anche in Inghilterra, Cosa? Sono civili, la civile in Inghilterra. È vero, è vero. Su YouTube c'era questo incontro di lotta proprio con le scommesse, i bambini di 7-8 anni. Scommesse interessanti. Sì, una Biglietto d'ingresso e tutto, E quindi, ho fatto anch'io qua, tutto regolare, C'è il biglietto d'ingresso, il banchetto delle bibite. Vediamo anche i fischietti per tifare. I fischietti? Ma cosa? Sì, vabbè, i fischietti che si tifano. La gente scommette. Si fischietti! E lì, come ring nel cortile, usiamo la voliera, quella vecchia voliera arrugginita. Gli uccelli non ce l'ho più. 5 euro si può assistere. Ma nella voliera si va come pubblico ai due combattenti. I due bambini vengono lasciati liberi. Tipo l'arena dei leoni, ho capito. E tu partecipi anche. Ma no, vi ho detto che sono l'organizzatore. Ah, vedi, lui fa il business. Io fa come quello di Tyson con i capelli bianchi. Com'è? Don King. Ecco, Don come King fa a sapere? Don King era un ladro, Era un? Era un mezzo delinquente. Ah, vabbè. Cioè, e adesso ormai Don King, anche lui, come tanti, è morto. E quindi questi incontri adesso. No, allora, perché io mi occupo di tutto. Dell'incasso, dei biglietti ingresso, no? Della security, perché lì ci si agita, può succedere qualche spettone, certo. Roba di bambini, E poi gestisco il calendario degli incontri. poi nei ritagli di tempo faccio anche la libratore. Ma come? Ma, ma guarda che chiamo Suor Dentona, ti da due sberle, vedi, la libratore, la, l'alligatore fai. Scommesse, ma scommesse legali, eh? Come si legali? Buttano le merendine, non i soldi, gli euro sono click per il biglietto. Ah, vabbè. Ah, ho capito. E comunque, non ho finito qui, Siccome alla fine l'organizzazione, una volta preso il giro, è una menata per me, mi annoia. Sì. A parte i soldi dei biglietti che mi metto dentro in tasca. Che... Tu, da solo. Si fretta mica da ridere. Ah, va bene. Quindi per divertirmi, per partecipare un po' anch'io, faccio il manager di Gildo. Ma il manager di Gildo. Ma Gildo si è offerto lui volontario, ha detto voglio partecipare. No, adesso non così. All'inizio era un po' titubante, però poi l'ho convinto. Sì. Ho puntato tutto sul suo orgoglio di bambino. Sì. Guarda qui. Che non c'è. Che diventi famoso. Il bambino lottatore più piccolo del mondo. E un po' di robe così, no? Sì. Ti ricordi? Tu sei il bambino più lottatore più piccolo del mondo. Sì, non è ancora chiara la cosa, però ti stai arrivando, no? Alla fine comunque ha accettato, no? Adesso è contento. E vedi, contento. Anche perché non è ancora salito sul ring. Sì, sì, va bene. E poi lo sto preparando, faccio il manager sul serio, per gioco. Sì, ma... Quindi esercizio, alimentazione, doping. Ma come doping? Doping di un bambino immaginario. Ma, che, ma, sì! Ma con cosa lo droghi? Ma no, non ho capito. No, subito i paroloni. Ma... sì, ma adesso vuoi subito il doping, criminalizzare. Ma... No, doping, ti ho già dato il doping. E perché si agita un po'. Che poi è doping per modo di dire, no? Cioè doping naturale. Naturale. Gino? Gli dai due sberle, cos'è? No, no. Un attimo, Gino, il bidello, mi ha dato 10 fialette. Sì. Me l'ha regalata, ma tu faccio una roba qui, questo ha un valore inestimabile. Perché sono, mi ha assicurato lui, lo dice Gino, che contengono una sostanza vegetale, scoperta da poco, che aiuta a rinforzare i muscoli. I muscoli di Gildo, che non esiste, vabbè. Che poi, questa roba serve solo così. Ma scusa, ma come gliele dai ste fiale? Lui è invisibile, è immaginario. Ma come sta storia? Ma come sta storia? Ma non vedete che muscoli ha? Ma che ma non si vede, non che c'è. Che poi, a parte i muscoli che ha, considerevoli adesso. A me che Gildo vinca o perda, mi interessa relativamente. Ma come, sei suo manager. Ma infatti. Dovresti farlo vincere, cioè, dovresti sperare che vince sempre. No, però che vinco io. Quindi non sono, ma come... le scommesse, no? Ma vabbè, le merendine però. Ma Gildo è un tesoro, è così il soggetto perfetto. Ma perché? Ma è facilmente manipolato. Questo per motivi che potete anche capire. Eh sì, non esiste. Quindi... vinco io! E dice lui. Ecco. Boh, se gli dici di perdere, lui perde, no? Sì. Se gli dici di bere la fialetta, lui bere la fialetta. Quindi, essendo io anche la liberatore, sì. Sono una botte di ferro. Vabbè. Io. Sì, comunque sei veramente poco sportivo, bambino Alberto, perché non si fa così. Basta criticare ogni cosa che faccio, ma insomma, dai. E comunque lasciatemi stare che devo catechizzare Gildo, Devi? Catechizzarlo, cioè. Catechizzarlo. La fialetta, cioè, 10 fialette bevuto. Allora, non vedi che non... Come 10 fialette? Ma una devi fargliene bere. Allora, ma mi lasciate stare, no? Allora, Gildo, c'è l'incontro domani. Sì, la fialetta, spero dopo la fialetta. Adesso, domani c'è l'incontro di lotta, no? Tu sei lottatore, più tipo del mondo. E sei il favorito! Favorito, puoi vincere, no? È una settimana che prendi le fialette, ormai lo vedi che braccia, sei impressionante, Sei imbattibile! Sì, però domani devi perdere. No, io devo vincere! Tu devi perdere! Io devo vincere! Una pausa! Io devo vincere! No, tu devi perdere! Tu devi perdere! Ma sì, devo vincere! Siamo in due! O vinco io, perdi tu! E abbiamo scelto questa opzione tempo fa! E ora, bambini, e tutti a casa! Sai che Marchionne... Scusa, adesso voglio dire, ti tappi le orecchie e fai bla bla bla, ma sei fuori. Sei tu che sei fuori, che parli di Marchionne, ma basta, dai, però, scusa, ma sei ossessionato. Ammetterai, K, che la scorsa settimana ha fatto una cosa notevole. Cosa Marchionne, ha fatto? No? Si sarà messo il golfino anche con sti 30 gradi ma del no, serra, no, no, ma no, ha mandato... No. Marchionne ha mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Marcegaglia e si è chiamato fuori da Confindustria con una raccomandata, hai capito? È come se Sarkozy una mattina si alzasse e mandasse una raccomandata con ricevuta di ritorno a Barroso e si togliesse poi dall'Europa, no? Basta! Con l'Europe, basta! Vabbè, ma quello è Vincent Cassel, cosa dice? Beh, anche Sarkozy dice basta! Ah, basta cetacea! Basta cetacea italiana, anche Sarkozy! Adesso che c'ha la pancia! Ah, già è vero, anche Carlo c'ha un po' cetacea, comunque vabbè. Comunque adesso ho capito perché la stampa di Torino non non ha parlato della nostra vittoria al Pri Italia. Eppure il Pri si faceva a Torino, quindi che non ne abbia parlato la stampa. Perché tu dici quello? Perché era appena partita la raccomandata, no? Certo. Dici che... Ma certo. Ma no, dai, ma figurati. Scusa, la stampa è della FIA, Radio 24 è della Confindustria, fai 2+2. Ma dai, ma cosa c'entra un premio artistico con la raccomandata di Marchione che si toglie da Confindustria? Un invidiosetto. Ma non lo sa che abbiamo vinto il Pri Italia, Marchione, dai. Dici che non ha messo Pri Italia su Google Alert? Ma direi di no, insomma. Ma intanto mi hai fatto di nuovo parlare di Marchione per tutto il tempo, già questo vuol dire che mi hai fregato. È più forte di me, è più forte di te. Adesso stai facendo, perché scrivi? Scrivo una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui ti impongo di non parlare mai più di Marchione. Se ha funzionato con la Marcegaglia, funziona anche con te, no? Le persone serie ci sono ancora. Tipo Alessandra Comazzi, che scrive di radio e di TV sulla stampa, che in effetti ha scritto del Pri Italia. Se tu che non sai leggere, basta, taga, basta. Sono io che avevo. Ringrazia le vere persone serie, persone che serie a fare il programma. Eh sì, Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Tommaso Varvello e Alberto Caserini. E basta, poi siamo K e Drago e basta. Potete telefonare allo 02 46 52 44 95 e scrivere. Scredere, cos'è scredere? Scrivere. Ah, sei ignorante. No, come? Non sono ignorante. Chiedo asilo, è tradio24.it. Scredere.